Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. English Bit di Giulia Crivelli. Healthy precision nutrition. Why there is no such thing as healthy food, only what's healthy for you. Il settimanale di divulgazione scientifica britannico New Scientist ha dedicato la sua ultima copertina alla scienza del cibo. Nutrizione di precisione. Perché non si può parlare di cibo sano, ma solo di ciò che è sano per te. La prima parola che ci interessa è l'aggettivo healthy, salutare, che fa bene alla salute, che infatti si dice health. I sostantivi che finiscono in TH, un po' un incubo per gli italiani, come health e wealth, ricchezza, danno origine a un aggettivo che finisce in THY. Wealthy significa ricco. Keep healthy by eating well. Tieniti in salute mangiando bene. A shampoo that keeps hair looking healthy. Uno shampoo che mantiene un aspetto sano dei capelli. Notiamo, perché non guasta mai ricordarcelo, che hair in inglese è singolare, ma si traduce con il nostro plurale. She has red hair, ha i capelli rossi. Torniamo a healthy. Come in italiano può essere usato in senso figurato, non solo in rapporto al fisico. She has a healthy respect for her rival's talents. Ha un sano rispetto per il talento della sua rivale. It's not healthy the way she clings to the past. Non le fa bene restare così attaccata al passato. Si può usare anche per indicare la buona forma di oggetti inanimati. Your car does not sound very healthy. I rumori che fa la tua macchina mi preoccupano, potremmo dire. A healthy economy è un'economia sana. E venendo a wealthy, they live in a wealthy suburb of Chicago. Vivono in un sobborgo ricco di Chicago. The couple are said to be fabulously healthy. Si dice che siano una coppia incredibilmente ricca. Per quanto riguarda il sostantivo, possiamo dire his personal wealth is estimated at around $100 million. Ha una ricchezza stimata intorno ai 100 milioni di dollari. Anche qui vale pure il senso figurato. The new manager brings to our company a great wealth of experience. Il nuovo manager porta nella nostra azienda una grande ricchezza in fatto di esperienza. Ma occupiamoci di nuovo di salute. To be in good or poor health significa, come in italiano, essere in buona o cattiva salute. Smoking can seriously damage your health. Fumare può seriamente danneggiare la tua salute. Mental health è la salute mentale. Tra i modi di dire, he was nursed back to health by his wife. Fu la moglie a riportarlo alla vita. She was glowing with health and enjoying her life. Scoppiava, letteralmente splendeva, di salute e si godeva la vita. As long as you have your health, nothing else matters. Fino a quando c'è la salute, niente altro importa. E nothing else matters, sia detto per inciso, è anche il titolo di una splendida canzone degli Iron Maiden, una delle poche ballate della band, tra le più importanti del heavy metal. Healthcare è la sanità. Health insurance, l'assicurazione sulla salute. Health workers, come abbiamo sentito spesso in tempi di pandemia, è il personale sanitario. Health minister o secretary, il ministro della salute. All parties are promising to increase spending on health. Tutti i partiti stanno promettendo di investire di più in sanità, dobbiamo tradurre in questo caso. English Bit di Giulia Crivelli. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.